Non faccio musica leggendo spartiti, i soldi ce li siamo spartiti. Rap articolato sopra un semi articolato, rocolato non pippo, ascolto hip hop. P2, P3, MP3, nel paese delle dritte, come un flipper girano le palle. Tre scimmie sulle spalle, cavalle, stelle, stalle, mi sfru. Ma se ci avessi un giorno di vita vi ammazzerei tutti. Non vi piace tranne te, perché un singolo così nel rap nessuno lo sa fare tranne me. Il mio mondo è così freddo, si gela, si sclera come in Siberia. Se punta qualcosa io non rimando, lo faccio di persona. Come lo scambio, non ho la doppia vita, la mia è tripla, il mio rap apre il culo come Melita. Non hai sogni né interessi reali, non voli, ti mancano le ali. Io nei sogni vedo nuda Bali, lei, poi scrivo isolato come Gali, lei. Per i figli sono roba da euro, per i genitori sono tipo, scusi, quant'è? 15 euro, il cofanetto 27 euro circa, perché c'ha 4 cd e un dvd. Che merda questa traccia, lo scrivi sul web se non c'hai le palle di guardarti in faccia. Vivi in casa con i tuoi e non sai scrivere, no aspetta, vivi in casa con i tuoi non è vivere. Nei testi prende do di tutto, lo vuoi anche tutto, però non sai e non distingui, aspettavi Sting. Agli istinti estinti tu ringhi e basta, senza soldi in tasca, mi riascolti come un tossico che ci ricasca. Ascolti la mia voce, non ti piace, poi ti piace, poi di nuovo non ti piace, come cazzo stai? Vado così veloce che ho lasciato Tom Cruise alle spalle nella scena in cui guida su Vanilla Sky. Questa è copiata, questa è occupata, fa lo stesso, droga e sesso prima del decesso. Più stai con le fighe più sei sottomesso. La gente si scambia, ma la gente è stronza come radar, al contrario non cambia. Fabri Fibra è tornato, lo aspettavate? Io no. Let's go.